Allora, ci attende come sempre una risposta all'ascolto, all'ascolto che noi poniamo a quanto accade nella nostra società. Quest'anno in più ci siamo concentrati sull'ascolto di noi stessi, invitando anche degli ospiti che ci aiuteranno in quello che possiamo definire un'introspezione, quindi a capirci meglio, che poi è sempre lo strumento utile per capire meglio gli altri. Quali sono le tematiche che toccheremo? Naturalmente al centro, e devo dire purtroppo drammaticamente, sempre quello delle donne, è sempre agli onori della cronaca, e lo faremo attraverso presentazioni di libri da Francesco Piccolo con Fumetti Brutti, ma Michela Marzano che parla del post Me Too, lo faremo con Concita De Gregorio e Erika Mu, lettera alla ragazza che sono stata, per dare un viatico alle ragazze che verranno, ma non solo, avremo anche poi altri argomenti che andremo a toccare. Un tema che ci è piaciuto quest'anno portare, quello dei ricordi, quindi dedicato a Ivano Marescotti, che è scomparso lo scorso anno, Enrico Berlinguer con Luca Telese. Purtroppo non avremmo immaginato di dover annoverare tra i ricordi così presto anche quello a Michela Murgia. Abbiamo chiamato Fois, suo amico fraterno, e Lella Costa, che gli ha dedicato un ricordo proprio al funerale, e quindi insieme a loro percorreremo questa vita intensissima di Michela, che è stata spesso con noi e che è stata una luce oltre che un'amica. Vedo che torna anche Eccentriche, il festival, all'interno del programma, torna anche quest'anno. Eccentriche fa per l'appunto parte di quella propensione all'ascolto che ha sempre avuto San Filippo Neri. Quando sono venute ad illustrarcelo, noi abbiamo aperto le braccia e le porte, perché naturalmente il tema del femminile ci interessa, a maggior ragione se è percorso andando a individuare appunto le donne un po' fuori dal comune, le eccentriche. Tornano anche altri festival che sono con noi quasi tutti gli anni, il Robo Festival dallo scorso anno, Per Aspera, e un festival completamente nuovo che è il UC Festival, che è un festival che indaga le nuove tecnologie. E proprio per rimanere sul tema, abbiamo chiesto loro di portare da noi i prodotti di teatro d'ascolto, quindi tre serate in cui noi, più che vedere, ascolteremo proprio con le cuffie wireless quello che performer e artisti hanno messo a punto. Grazie mille. Grazie a voi.